Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la nostra rubrica di lettura dei settimanali, dei periodici italiani e stranieri. Come sempre, come ogni sabato, come ogni domenica, andiamo un po' alla ricerca di spunti diversi, di spunti curiosi, di spunti interessanti su cui riflettere, anche qualche consiglio di lettura magari. C'è un argomento un po' curioso che ho trovato questa settimana su Vanity Fair, ma pare che la cosa stia diventando di moda, quindi ve la riferisco così come l'ho letta: il divorzio diventa una festa. Ora, che ci sia da festeggiare un divorzio è forse una questione di cui si potrebbe parlare a lungo. Io mi limito a leggervi quello che ho trovato su Vanity Fair. Separarsi in fiera, perché? Perché sbarca anche in Italia un salone dedicato agli ex. Ci sono bomboniere, prove del DNA e parti di addio. Quindi il divorzio, il momento di separazione, che diventa invece un momento addirittura in cui scambiarsi dei doni o delle bomboniere. La prima volta di questa fiera è stata a Vienna nel 2007, poi Londra e Parigi nel 2009, quest'anno il Salone del Divorzio arriverà in Italia. Sarà a Milano tra il 17 e il 18 aprile, in un albergo. Ci saranno più o meno 25 espositori, quindi è una cosa abbastanza ridotta. Comprensibilmente forse non c'è tutta questa richiesta ancora di festeggiamenti per il divorzio, ma in realtà qui il festeggiamento è solo uno degli aspetti, perché quello che viene rappresentato, quello che viene offerto alla curiosità dei visitatori è un po' tutto quello che è connesso alle crisi di coppia. Quindi ci saranno gli investigatori, gli avvocati, le ditte di traslochi, altre agenzie, ad esempio quelle di babysitter o quelle che si occupano di accudire gli animali domestici, e accoglieranno tutti questi espositori neodivorziati che vogliono superare la rottura e ricominciare. La fiera si chiamerà Ex punto e a capo. L'ideatore è un signore che si chiama Franco Zanetti, direttore tra l'altro di un sito musicale, sito internet musicale. Ha già lanciato un'altra fiera molto particolare qui a Milano, si tratta del Miss Ex. Lui ha anche scritto un libro che si chiama Single di ritorno, per dire come si sopravvive a una separazione. Questo tipo di offerta, spiega Vanity Fair, è per sdrammatizzare. Si può divorziare in modo civile, a volte addirittura in allegria, è quello che dice il promotore della fiera. Quando la mia ex ottenne il divorzio dal suo precedente marito, per esempio, le organizzai una festa con tanto di partecipazioni agli amici e bomboniere a forma di forbici. Qui non è per fare proprio i precisini, ma in realtà si festeggiava più la possibilità di una relazione nuova, stabile, più che la fine di quella vecchia. Però insomma, non stiamo a sottilizzare più di tanto. La cosa da segnalare è che al salone ci saranno delle offerte, come vi dicevo, molto variegate. C'è anche un'agenzia anti-stalking. Questo invece, come sapete, lo stalking è il reato di molestie ripetute, possono essere le telefonate continue o certi appostamenti. È un reato introdotto da molto poco nel nostro codice penale e che però ha già ottenuto una mole notevole di segnalazioni, a testimonianza che i comportamenti non ortodossi, i comportamenti fastidiosi, molesti degli ex possono essere molto diffusi. Quindi ci sarà anche un'agenzia anti-stalking pensata soprattutto per le donne, che poi sono più facilmente vittima di questi comportamenti. Ci saranno anche gli esaminatori del DNA per provare la paternità, quindi diamo, come dire, un motivo di discredito agli uomini e uno alle donne. Un bambino su 10, riferiscono qui su Vanity Fair, in Italia non è figlio del padre presunto, e quindi è giusto che anche gli uomini si tutelino, questo riferisce Vanity Fair. C'è addirittura, sempre in questo lavoro che è stato raccolto da Camilla Strada, la segnalazione di un'agenzia italiana di planning per il divorzio, costituito da una squadra di esperti. L'agenzia si chiama Ciao Amore e serve a rimettere in piedi il coniuge dopo la separazione, curando l'aspetto legale ma anche quello psicologico, e addirittura appunto arriva anche all'organizzazione di party per il divorzio. Ci sono delle liste regalo, non risultano da noi, ma le segnalano ai grandi magazzini Debenhams di Londra e al salone, a questo salone appunto in aprile si presenterà anche chi sta importando queste liste regalo per i divorziandi in Italia, quindi dovremo dopo le liste nozze sarà, forse potrà diventare un'abitudine anche quella di regalare qualcosa agli amici quando divorziano, per parenti e amici dovranno quindi fare un sacrificio ulteriore se poi la coppia non dovesse durare. E poi c'è naturalmente l'offerta, questa già è un po' più nota, del marito in affitto. Non pensate male, si tratta di un affitto appunto per cambiare una lampadina, riparare un tubo, ottenere un passaggio in automobile per andare al supermercato. Dice Vanity Fair, ammesso che lui prima del divorzio se ne occupasse, c'è un'agenzia di servizi, appunto si chiama Il Marito in Affitto, che offre dei sostituti per questo tipo di lavori domestici considerati più tipicamente maschili. Tutto questo su Vanity Fair, che segnala appunto questa nuova tendenza di festeggiare anche il divorzio, quindi il momento della fine di una coppia e non solo, come abbiamo fatto fin qui, quello della costituzione, della formale creazione di una coppia. Cambiamo decisamente argomento, perché vorrei darvi una notizia positiva. Ho letto su Newsweek che il boom economico è vicino. Voi forse potete anche essere scettici, almeno tanto quanto lo sono stato io nel leggere questo articolo di Greg Easterbrook. Greg Easterbrook dice che la ripresa che sta arrivando ci colpirà in un modo davvero fortissimo. E, da dove trae questa convinzione? Questo signore Greg Easterbrook ha scritto un libro che si chiama appunto Un boom esplosivo, la globalizzazione alla velocità del suono, e secondo la sua analisi, che viene presentata naturalmente molto più in breve che non nel suo libro, che è intitolato Sonic Boom, non risulta che sia ancora tradotto in italiano, secondo appunto Easterbrook la crisi sarà superata molto presto, perché ci sono tutta una serie di condizioni che in realtà non stanno facendo altro che mettere un po' sotto silenziatore le enormi possibilità di crescita di cui già disponiamo. Lui comincia con una presentazione della situazione attuale abbastanza grigia, come devo dire forse più si confà a quello che leggiamo tutti i giorni. Dice: i prezzi delle case continuano a cadere, però aggiunge subito: la produttività sta crescendo velocemente, il prodotto interno lordo per gli Stati Uniti è cresciuto del 5,6% nell'ultimo trimestre del 2009, però a questo dato positivo contrappone un dato negativo: i disoccupati rimangono preoccupantemente troppi, l'inflazione è di fatto ridotta o non esistente, però la fiducia dei consumatori, nonostante appunto l'inflazione non sia particolarmente preoccupante, è scesa nella parte finale dell'anno, questo per il dato americano, da un 55,9 a un 53,6, qualsiasi cosa questo voglia dire. Effettivamente questi indici di fiducia poi sono sempre un po' difficili da interpretare anche per chi si occupa abitualmente di loro, però dice quale lezione, quale insegnamento dobbiamo trarre da questi dati che sembrano contraddittori, che effettivamente sono un po' così anche in Italia. Abbiamo dei dati positivi di chiusura del 2009, ma anche delle circostanze, delle congiunture preoccupanti sempre per la fine 2009, queste prime settimane del 2010. Dice, secondo Easterbrook, stiamo per assistere a questo boom esplosivo, sarà causato dalla globalizzazione. E se la globalizzazione vi manda fuori di testa, e la traduzione letterale di quello che lui scrive ha una scrittura abbastanza colorita, sappiate che questo è solo l'inizio. 30 anni fa, pensateci, Shenzhen in Cina non esisteva, oggi ha all'incirca 9 milioni di abitanti, più o meno lo stesso di New York City, e in una sola generazione è cresciuta da un villaggetto a un importantissimo centro urbano di livello mondiale. Quindi la recessione internazionale, che è cominciata nel 2008, la crisi insomma che abbiamo visto cominciare nel 2008 con le questioni finanziarie e poi esplodere anche nelle sue conseguenze economiche, con le conseguenze soprattutto sull'occupazione, in realtà sarebbe oramai da considerare superata, secondo Easterbrook. La storia mostra che quando una crisi finisce, prendono piede le tendenze più ampiamente diffuse e Shenzhen, cioè la globalizzazione, la presenza di nuovi protagonisti sul mondo economico e nella società, è uno di questi esempi. Individua poi in questo breve assunto, che speriamo tutti in qualche modo sia azzeccato, perché ci promette comunque una prospettiva migliore, individua poi alcuni punti critici. Attenzione, perché dobbiamo considerare ad esempio il cambiamento climatico, perché il cambiamento climatico, comunque si vogliono considerare anche le recenti polemiche che hanno investito i dati che provengono dall'ONU, sono o non sono affidabili eccetera, questo però potrebbe cambiare un po' il nostro approccio soprattutto economico, se vogliamo puntare su certe lavorazioni più verdi, la cosiddetta green economy come si dice, oppure non riusciamo a intercettare questo tipo di proposta. Però, o forse in conseguenza di questo, lo stesso Easterbrook dice che il nostro modo di produrre potrebbe rivelarsi subito obsoleto e, importantissimo, investiamo sull'educazione. Non bisogna ridurre l'investimento in educazione, ma invece aumentarlo, perché, come lo definisce lui, è la nostra arma segreta. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, vi stavo parlando di questo articolo di Greg Easterbrook che è apparso su Newsweek questa settimana, un articolo provocatorio, ma siccome è ottimista ci fa piacere restarci qualche minuto in più. Come vi dicevo, questo signore dice che la globalizzazione sta per trascinarci in un boom economico senza precedenti, quindi l'uscita dalla crisi non solo è vicina, sta già avvenendo, ma addirittura sarà a una velocità mai vista prima. Però, come vi spiegavo, individua anche alcuni fattori critici che sono determinanti per poter cogliere appunto questo vento favorevole che dovrebbe presto portarci in un territorio economicamente più felice. Allora, il cambiamento climatico ve l'avevo segnalato, il rischio di poter disporre, la necessità di dover disporre meglio di un sistema produttivo che non sia obsoleto, che non sia superato, è l'altra esigenza fondamentale. Lui lo vede naturalmente più da un punto di vista statunitense e quindi teme la concorrenza cinese. Dice la Cina sta perdendo posti di lavoro più velocemente degli Stati Uniti perché sta migliorando la sua capacità produttiva, quindi questo comporta una redistribuzione delle forze lavoro che vengono quindi ridotte in una fase che abbiamo visto noi anche nei decenni scorsi, nel passaggio appunto a un'economia più di servizi e meno del settore produttivo. Poi l'importanza dell'educazione. L'educazione, cioè la formazione, l'America guida il mondo in molte aree, l'economia, il potere economico, la stessa musica, ma nessuna di queste aree è così importante quanto l'educazione, l'istruzione superiore. Proprio ieri parlavamo della riforma delle superiori che l'Italia ha appena varato, che verrà in vigore dal prossimo anno, e qui Easterbrook dall'altro lato dell'Atlantico ci dice: attenzione, l'educazione, la spesa in formazione è cruciale. Gli Stati Uniti hanno più college importanti che il resto del mondo messo insieme, e tuttavia ci sono gli stati che stanno tagliando le spese per il sistema pubblico, il sistema dell'università pubblica. Cita la California e il Texas, ma dice ci sono anche altri stati che lo stanno facendo. È un errore terribile. Sul lungo termine i college, quindi scuola superiore, le università potranno costare, saranno costretti aumenteranno la società sempre meno di quanto saranno i risparmi che potremmo garantire, perché più avremo a disposizione persone formate, più avremo la possibilità di ottenere le risposte che ci servono per reagire alla crisi. E poi un tema ricorrente, ci stiamo avvicinando alla data dell'8 marzo, della festa della donna, comincia sui settimanali ad apparire un po' questo tema dell'importanza delle donne nell'economia, nei posti di comando. Il tema è sempre presente, ne abbiamo parlato diverse volte anche nella nostra trasmissione. Conferma il Easterbrook che il ruolo delle donne sarà cruciale nella capacità di cogliere la ripresa, perché dice la presenza sempre più massiccia delle donne sul lavoro e nei posti di comando, naturalmente non si riferisce solo e soltanto agli Stati Uniti, quanto piuttosto a paesi dove l'inserimento delle donne nel lavoro è inferiore, dice questa presenza potrà raddoppiare la fornitura di idee che il mondo ha a disposizione, e questo ovviamente è un dato positivo. E poi una notizia che tutto sommato non dispiace: il militarismo declinerà, cioè l'approccio militare, secondo Easterbrook, per tutta una serie di ragioni appunto connesse alla globalizzazione e alla ripresa economica che la globalizzazione amplificherà, bene, porterà a una riduzione decisa del militarismo, dell'approccio militarista alle questioni internazionali. Tutto sommato è una buona notizia, una serie di buone notizie da Newsweek di questa settimana. Vorrei tornare un attimo su una cosa molto di stagione che ho trovato su Il. Sapete che Il è il mensile del Sole 24 Ore. Proprio settimana scorsa, 7 giorni fa, avevamo ospite in questa trasmissione Walter Mariotti, che è colui che qui al Sole 24 Ore si occupa appunto di realizzare Il. Lo trovate ancora in edicola, sempre con il Sole 24 Ore. Tra le cose che ci sono su Il c'è anche la consueta rubrica che è chiamata Cocktail Martini, perché è affidata appunto a Paolo Martini, che viene definita massima enciclopedia del minimo. Ci si trovano delle curiosità, degli spunti interessanti. Allora, particolarmente di stagione, una tabella sul peso degli sci, cioè in questa stagione molti di noi ne fanno uso. Gli sci sono arrivati a pesare poco più di mezzo chilo l'uno, ma quanto pesavano prima, com'è stato il cambiamento, qual è stato il cambiamento negli anni, nei decenni per questo tipo di materiali? E scrive Martini, dai legnosi 4 e rotti chili di uno sci, tipo quelli con cui Zeno Colò stabilì il nuovo record mondiale di velocità a 160 km orari nel 1947, oggi è facile vedere scendere dalla stessa pista qualche sci alpinista che si allena con attrezzi da 640 grammi a sci. Per gli attacchi, poi, il caso limite sono i 160 grammi di un low-tech race che è stato recentemente brevettato come attrezzo da gara, naturalmente. E poi un'altra delle cose pesanti che affliggono e comunque sono indispensabili per gli sciatori, gli scarponi più leggeri attualmente sono degli scarponi francesi, pesano soltanto 450 grammi. Una tabella completa il peso in grammi, lo sci meno pesante di tutti pesa 640 grammi, come vi dicevo. Il secondo classificato in questa tabella è comunque piazzato bene, perché siamo nell'ordine del chilo di peso. Quindi rispetto a Zeno Colò, che doveva farsi scivolare su un complessivi 9 kg, 4 kg e mezzo per sci, adesso con 2 kg o anche meno di 2 kg si può scendere, e così anche per gli scarponi si può arrivare ad avere non più di un chilo complessivamente ai piedi mentre si scia. Questa è una stagione in cui siamo particolarmente sensibili naturalmente alla meteorologia, perché la stagione è fredda, abbiamo speranza di cominciare a vedere la prima uscita dall'inverno, qualche segnale di primavera. Questa settimana Donna Moderna ha fatto un interessante confronto tra i detti popolari e la meteorologia. Allora, qualche cosa ve lo volevo segnalare di questo lavoro presentato appunto da donna moderna, se ne è occupato Maurizio Dalla Palma. Dice: quando ad esempio diciamo che fa troppo freddo per nevicare, diciamo una cosa vera o una falsità? O in me diciamo una falsità, perché i fiocchi di neve cadono anche sotto gli 0 gradi, chi vive in montagna lo sa, cadono anche a meno 10, al polo nord cadono anche quando fa meno 40. La neve si forma dentro le nubi, raggiunge una massima efficienza di neve appunto attorno a 12 gradi. Cosa invece quasi vera è quella dell'estate di San Martino, quella appunto dell'11 novembre, che di solito porta giorni di tempo bello e temperature miti. Così come risulta vera la credenza che vuole il 17 gennaio, festa di Sant'Antonio, uno dei giorni più freddi dell'anno. Effettivamente i giorni più freddi dell'anno stanno tra il 25 dicembre e il 15 gennaio. Ohimè, non risultano così vere le credenze sui giorni della Merla, 29-31 gennaio, e neanche la Candelora, dall'inverno siamo fora, si dice. Non c'è niente di vero, purtroppo, dice Giuliacci a Maurizio Dalla Palma. Tutte le previsioni del tempo legate a feste religiose in generale nascono da più dal desiderio del bel tempo che da una reale osservazione scientifica. Allora, con queste indicazioni che ho tratto da Donna Moderna di questa settimana, abbiamo concluso la nostra puntata di oggi. Io ringrazio Vittoria Mussini e Emanuela Sicuro che mi hanno aiutato a prepararla. Vi ricordo che oggi con Il Sole 24 Ore trovate in edicola anche una cosa molto interessante per chi ama leggere e rileggere, un CD-ROM in cui abbiamo riunito tutta l'annata degli articoli del Sole 24 Ore, il supplemento culturale della domenica. I nostri lettori sanno benissimo di che si tratta, sono tutti gli articoli riuniti in un CD-ROM da oggi in edicola a 12,90 euro insieme al Sole 24 Ore. Domani ci saranno gli articoli della sezione Norme e Tributi dell'Esperto Risponde, e da martedì potrete trovare un CD-ROM analogo dedicato a finanza e mercati e a Plus. Ci sentiamo sabato prossimo.